Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Nel primo degli approfondimenti di questa settimana parliamo di social chef. La cucina, il cibo, le ricette impazzano non solo in televisione ma anche sul web. Per il successo dei grandi nomi della cucina italiana non bastano più padelle, mestoli e cucchiai di legno, serve una presenza e un uso ad hoc dei social network. Scopriremo allora la classifica degli chef più amati dalla rete. A proposito di cuochi superstar, parleremo poi di un grande evento che si chiude oggi a Milano, un vero e proprio happening gastronomico che ci svelerà le ultime tendenze del settore. Focus sui trend, dedicato infine a uno stile tutto da decodificare e riscoprire, lo stile camp. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Quest'anno le vacanze costeranno alle famiglie italiane il 15% in più. Gli aumenti, sostiene il Codacons, riguarderanno tutti i settori, dai trasporti agli alimentari, passando per stabilimenti balneari, accessori mare, ristorazione e strutture ricettive. Continua a crescere l'e-commerce in Italia. Secondo Netcom, gli acquirenti digitali italiani, in crescita dell'11% rispetto al 2011, hanno raggiunto quota 10 milioni, 9 miliardi e mezzo di euro il giro d'affari. Coca-Cola Iberia rende omaggio alla Pepa, la Costituzione del 1812 che celebra quest'anno il bicentenario. Lo fa citando sui cartelloni pubblicitari l'articolo 13, uno dei più rivoluzionari della Carta spagnola. Obiettivo del governo è la felicità della nazione. Si terrà a Firenze dal 25 al 27 maggio la nona edizione di Terra Futura, mostra convegno internazionale delle buone pratiche di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Dopo Cavalli, Versace e Marni, un altro nome italiano si aggiunge alle collaborazioni internazionali di H&M. È il momento dell'icona modaiola Anna Dello Russo, che per il colosso svedese firmerà una collezione d'accessori. La borsa della spesa. Questo è un pane, però, come dire, dell'Alto Adige, no? No, questo è un pane che si ripete regione a regione. È un pane che si mantiene tanto. E più va avanti, e più diventa buono. Se sai far bene la spesa, il miglior ristorante del mondo è casa tua. Ah, qua abbiamo messo anche un bello spicchietto d'aglio. Dunque, arriva il freddo e noi dobbiamo un po' consolarci con qualcosa di molto buono da mangiare. E allora, mettiamoci a cucinare. Prendi la bocchetta grande e vai giù, e poi in fuori. È ora di iniziare a lavorare alla torta di Miss Richfield. Io e Mauro prenderemo la crema di burro verde e guarniremo l'albero di Natale. La cucina non è fashion, la cucina è cultura. Gli esperti lo chiamano foodtainment, il cibo diventa spettacolo, intrattenimento, lo dimostra l'invasione delle trasmissioni TV che parlano di cucina. Gli chef sono diventati delle vere e proprie star, protagonisti anche sui social network Facebook e Twitter in primis. Vediamo cosa facciamo oggi, questo sì che è esercizio fisico. Facciamo uno dei miei piatti preferiti, la frittata di spaghetti, un classico. Ma viene anche a trovarmi una mia amica, che ha scritto sul sito e ha detto: Ale, voglio imparare un piatto spiccio da bar. Lo sentite in sottofondo, il cuoco più social, secondo la classifica stilata dall'agenzia di comunicazione Lewis, è Alessandro Borghese, oltre 175.000 fan su Facebook, un profilo Twitter sempre cinguettante e un canale YouTube super visitato. Per me è anche una fonte di ispirazione, ci ha detto. Ho il piacere quotidianamente di poter scambiare informazioni gastronomiche, musica, viaggio, un po' di tutto con tantissime persone in tempo reale. A breve bisognerà iniziare a fare un internet sensoriale, il computer deve sprigionare profumi. Che cosa ti chiedono i fan online? Ma guarda, maggiormente quando vieni a cucinare da me. È la domanda più frequente. E poi tanti consigli da ragazzi giovani, dai 16, 14, 15, 16, 18 anni, fino ad arrivare a nonne che si sono rimesse ai fornelli usando nuove tecnologie. Poi arrivano anche a andare privato, insomma, vogliono sapere magari dove vado in viaggio, quali ristoranti frequento quando vado in un'altra città, una sorta di guida turistica. E io da lì trago spunto, per poi fare tante altre cose. Quindi è sicuramente anche un luogo di informazione per me cuoco riguardo a quello che sta succedendo nel mondo gastronomico intorno a me, anche per capire cosa vogliono da parte mia, se ci sono delle tendenze nuove da seguire, se ci sono degli argomenti sensibili dove posso essere d'aiuto grazie all'esposizione mediatica, quindi è sicuramente utile. La medaglia d'argento va a un altro volto noto della TV, Simone Ruggiati. Seguono Maurizio Santin, Giancarlo Perbellini e, pari merito al quinto posto, Gianfranco Vissani e Bruno Barbieri, uno dei giurati di MasterChef Italia, insieme allo chef stellato Carlo Cracco, che nella classifica social si posiziona al nono posto. Da citare fra gli altri Gualtiero Marchesi e Moreno Cedroni in sesta posizione. Di cibo, chef e social network si è parlato anche a Taste of Milano, il grande happening gastronomico che chiude oggi la sua terza edizione. Puro godimento il claim dell'evento all'ippodromo del Galoppo di San Siro, dove è stato allestito un vero e proprio parco giochi del gusto, tra show cooking, incontri, workshop e ovviamente assaggi a piccoli prezzi dei piatti di grandi chef come Davide Oldani, Viviana Varese, Roberto Okabe, solo per citarne alcuni. Nel Taste Hub spazio alle nuove tendenze, dal fenomeno del cibo su ruote e lo street food itinerante alla riscoperta della merenda, che ha fatto il suo ingresso nei menu di molti ristoranti per il post riunione, il precinema oppure i ritrovi fra signore. Gli inglesi la chiamano drunch, una via di mezzo tra dinner e lunch. Il coordinatore Edoardo Mussanè: il cibo sta sicuramente, o lo è, possiamo dir meglio, da qualche anno diventato sicuramente molto social in doppia accezione, nel senso che sicuramente c'è una grande moda di quello che è il food e quindi i food blog e i food bloggers spopolano, ma secondo me va anche analizzato come fenomeno social in quanto a proprio offerta che viene creata e pensata, ideata per il cliente, nel senso che possiamo pensare a quello che è lo street food da sempre è stato un po' un fenomeno social e oggi, grazie all'inventiva di Andrea Carletti, l'architetto spezzino che ha inventato proprio quello che è lo street food mobile, quindi il nuovo concetto di mangiare per strada attraverso le sue APK, ha portato proprio quello che è la ristorazione per la strada, lungo la strada, e rendendo, diciamo, l'alta ristorazione meno, come si potrebbe dire alla francese, décontracté, ma decisamente più social. Tradizione e innovazione, le parole chiave per le nuove tendenze legate al cibo. Sicuramente si guarda molto, a mio parere, alla tradizione, all'importanza di quello che è la storica famiglia italiana, ma nello stesso tempo di grande innovazione, il dilagare del fenomeno dello street food piuttosto che dei cocktail alternativi o della cucinoterapia, ma poi anche guardando i menu che gli chef hanno presentato questi giorni, troviamo una tradizione che vuole quotidianamente sposarsi con l'innovazione. Essere e avere. Priscilla, la regina del deserto, il musical evento della stagione, apriamo il focus sui trend di questa settimana dedicato allo stile camp. A guidarci nell'analisi c'è come sempre la nostra esperta Patrizia Martello di Memeti Club, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Camp è uno stile consolidatosi negli anni 60, a codificarlo per prima fu Susan Sontag, una delle più grandi intellettuali del XX secolo, uno stile, un gusto, il camp, che fa del grottesco, dell'esagerazione, della finzione i propri codici espressivi, una sorta di uso raffinato e consapevole di elementi kitsch, elementi trash, gusto del bizzarro, dell'eccentrico e dell'eccessivo che ha segnato la cultura pop, dalla moda all'arte, al cinema, dalla pubblicità al costume, e che torna a farsi vedere. Patrizia. Non bisogna mai avere paura di essere volgari, solo di essere noiosi. A dirlo è la Vreeland, celebre caporedattrice di Vogue, icona fashion, il cui diktat tra i molti suoi famosi, perfettamente camp, ci invita appunto a non trascurare nel look quel leggero tocco di cattivo gusto di cui tutti pare abbiamo bisogno. Niente definizioni, il camp è un sostantivo inafferrabile, però cominciamo col dire, anche un po' banalizzando, che è il bello del brutto, il bello delle estremo. Non è uno stile definito, ma una sensibilità, un gusto che sa accostare appunto in modo stridente, anche disturbante, gli elementi più disparati, tutto ciò che è esagerato, anche volgare, kitsch, insomma ostentatamente artificiale. Questa è la parola chiave, l'innaturale, l'artificiale. La tendenza camp nasce nei primi del Novecento, nelle sue varie espressioni è continuata fino a oggi, fenomeno trasversale, come anticipavi, a letteratura, cinema, ma anche pratica sociale e ancora prima che culturale, diventa una precisa categoria estetica a partire dagli anni 60 e poi un trend della moda. Nella moda, negli anni 90, camp è sinonimo di Jean-Paul Gaultier, che veste Madonna con tutti i vari abiti scandalo, tra virgolette, Madonna icona che attraverso il travestimento e la performance camp è entrata prepotentemente nell'immaginario, anche quello sessuale. Citata Madonna, non si può non citare l'altra icona pop camp, Lady Gaga, tra l'altro comparsa su una cover di Vogue forse di un paio d'anni fa, vestita con un bikini di bistecche di carne cruda. Cattivo gusto sì, ma anche citazionismo e background culturale non superficiale. Infatti l'immagine è scattata da Terry Richardson, fotografo di moda tra i più oltraggiosi ed espliciti della scena americana, cita appunto un'opera dell'artista canadese Jana Sterbach del 1987, appunto sul tema della mercificazione del corpo. Il gusto camp ha una forte componente performativa, quindi è più facile quasi capire il verbo to camp, che deriva dal francese se camper, mettersi in mostra, quindi quel modo di sedurre con gesti teatrali carichi di ambiguità, molto autoironici e innaturali. Quindi essere camp è un po' fare spettacolo parodistico di sé. E sull'orlo del cattivo gusto è letteralmente la descrizione che Toshikazu Iwaya, fashion designer giapponese, dà del suo primo marchio moda, si chiama proprio Dress Camp, l'ha fondato nel 2002 e lasciato nel 2008. Tra l'altro l'ha lasciato a Marianne Pejoski, un altro fashion designer anglo-macedone, che poi ha creato il famoso abito cigno per la cantante Bjork ed è uno tra gli stilisti preferiti, guarda caso, di Lady Gaga. Iwaya ha creato recentemente il marchio Dress 33, che è un mix di stili, di tessuti, un quadrettato abbinato alla plastica lucida, metalli, pellicce rosa e blu elettrico, tagli oversize, mega fiocchi, accessori piumati, eccetera. Quindi se ci è capitato di vedere un abito da donna con ali d'angelo applicate o un lui camminare con un cappotto maculato arancione, forse abbiamo visto creazioni di Iwaya per strada. In Italia c'è un artista a cui si fa sempre riferimento quando si parla di immaginario camp, è Francesco Vezzoli, il geniale bresciano, che per celebrare l'anniversario del Museum of Contemporary Art di Los Angeles ha coinvolto in un video musical, di nuovo Lady Gaga, abiti di Prada, un pianoforte ridipinto da Damien Hirst e il cappello indossato da Lady Gaga disegnato da Frank Gehry, l'architetto del Guggenheim di Bilbao. Altro riferimento noto per capire l'estetica camp è David LaChapelle, famosissimo fotografo di moda e advertising, definito da molti il Fellini della fotografia. Barocche, eccessive, bizzarre, camp, appunto, sono le definizioni per lo stile delle sue foto. Ed è stata definita molto camp la rilettura cinematografica della favola di Biancaneve, rivisitazione visionaria firmata dal regista Tarsem Singh, protagonista nei panni della perfida regina Julia Roberts. C'era una volta, in un regno incantato, una bellissima principessa. Con la pelle bianca come la neve e i capelli neri come la notte. Bla bla bla, non sono neri i suoi capelli, sono corvini. Ha 18 anni e la sua pelle non ha mai visto il sole, per forza è bella. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Biancaneve. Cosa? Chi? Biancaneve. Oh. La favola classica. La volete sentire? Ha qualche ruga in meno. Solo rughe, semmai rughette. Mandala via nel bosco. Il principe è ricco e io voglio sposarlo. Così i miei problemi finanziari verranno risolti. Per me Biancaneve è la donna più bella di tutto il mondo. Concordo per quieto vivere. Il capo dei banditi è una donna? Il capo dei banditi è Biancaneve. Chi si vuole imbucare a un matrimonio? Il vostro trattamento è pronto. Trattamento? Non l'ho trovato un tantino eccessivo. Non esistono cose eccessive. Patrizia, il camp per molto tempo è stato punto di riferimento dell'immaginario omosessuale, ma questa correlazione oggi è riduttiva. Sì, lo è, però c'è un particolare rapporto tra gusto camp e omosessualità su cui ci soffermiamo. Le due cose naturalmente non coincidono necessariamente, nel senso che non tutti gli omosessuali sono camp, anche se sono loro da sempre a rappresentarne l'avanguardia in termini proprio di estetica, ma anche per la tonalità autoironica, dissacratoria, per il narcisismo sfrenato e per il gusto, per il travestimento, la maschera, la celebrazione dell'eccentrico. Gli omosessuali, quali aristocratici del gusto, come li definisce John Simon, sanno più e meglio degli altri praticare il camp, perché sanno usare il proprio corpo in chiave simbolica, in chiave ludica, anche erotica, da veri spiriti liberi. È un'estetica che ha anche una valenza politica, mi spiego. È uno strumento di sfida ai modelli della cultura dominante. Il camp fa un'operazione di ribaltamento di quegli elementi che sono stati utilizzati e vengono ancora utilizzati per isolare, stereotipare, discriminare. Quando questi stessi elementi vengono usati parodisticamente come propri caratteri distintivi, secondo una strategia di ribellione, bene, diventano un modo verso la liberazione, per questo dicevo spiriti liberi. E c'è chi ha calato questa estetica e le icone camp nell'insospettabile settore dei trasporti aerei. Quest'anno non è stato fatto per questione di budget, ma Air New Zealand, compagnia di bandiera australiana, dichiara che il servizio verrà reistituito. Stiamo parlando di Pink Flight, il volo aereo rosa inaugurato nel 2007, che ogni anno in occasione del Gay Pride australiano ha collegato San Francisco con Sydney. Un servizio quindi customizzato per questo specifico target in ogni dettaglio. A cominciare dall'aeromobile, rosa, tutto lustrini e paillette, colori sgargiantissimi, l'area d'imbarco, i banchi del check-in sono un'esplosione di glitter e piume, i separatori che incanalano i passeggeri in fila sono boa di struzzo rosa. A bordo, oltre al pilota e gli assistenti agghindati a tema, ci sono le hostess, che sono molto speciali. Sono quattro drag queen diventate hostess e memorabili per le coreografie con cui interpretano il noiosissimo annuncio iniziale su sicurezza ed evacuazione in caso di emergenza. Di fatto un vero musical con balli e canzoni alla Liza Minnelli dei tempi d'oro. I voli rosa in questi 5 anni hanno ovviamente suscitato molte polemiche. Le associazioni gay hanno protestato perché ritengono che in questo modo si ridicolizzi l'immagine del mondo omosessuale, i conservatori australiani perché dei soldi della compagnia sono stati spesi in questo modo. Neil Patton, il responsabile marketing di Air New Zealand, dice never say never, ma c'è una declinazione pop più quotidiana del camp, appunto, da tutti i giorni, quindi tutti possiamo avere il nostro piccolo oggettino che fa un po' camp. Possiamo andare in ufficio con la borsa lunchbox di Betty Page, un contenitore per il pranzo leopardato con l'immagine della celebre pin-up anni 50, oppure possiamo portare a passeggio il nostro cane con un vistosissimo collare nero borchiato con osso d'oro e diamanti incastonati. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Los Angeles su camp, consumi e dintorni? Ce lo racconta la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao a tutti. Lucia Vavum è il nome di una compagnia di artisti che da un po' di anni a questa parte porta in scena spettacoli che mescolano la lotta libera messicana, il cabaret e il burlesque, all'insegna del divertimento e dell'esagerazione. Protagonisti indiscussi sono i forzuti luchadores, i lottatori mascherati di lucha libre, che è l'equivalente messicano del wrestling, da cui appunto prende il nome la compagnia, lottatori che hanno nomi bizzarri come Crazy Chicken o El Bombero e travestimento naturalmente in tema, e che tra un match acrobatico e l'altro al ritmo di musica techno interagiscono con procaci spogliarelliste e con i comici ospiti. Senza dubbio uno show sopra le righe che inneggia al senso del ridicolo e allo stesso tempo però curato e ben prodotto. Non a caso i circa 12 spettacoli che vengono messi in scena ogni anno fanno il tutto esaurito. Grazie Alessia. Patrizia, la migliore tradizione camp indaga negli scarti della cultura di massa, infatti come abbiamo sentito dà luogo a un ammasso eterogeneo di prodotti gusti culturali e non, alti e bassi, una contaminazione molto in linea con i nostri tempi. Sì, ammasso e contaminazione sì, ma di nuovo è il gusto, il taglio, il modo, l'approccio che distingue il camp. Susan Sontag definisce il camp una particolare sensibilità, un modo di godere delle cose, di apprezzarle e non di giudicarle. Fa degli esempi: le lampade Tiffany, i titoli e gli articoli dell'Enquirer, le regie di Visconti per i film Salomè e Peccato che sia una sgualdrina, i vecchi fumetti di Flash Gordon, i boa di struzzo e i vestiti mille frange degli anni 20. Era il 1964, il camp ha continuato a trovare ambiti espressivi. Abbiamo appena sentito parlare di burlesque, che potremmo aggiungere a questa lista infinita di cose camp. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Se vi siete persi qualcosa, cliccate su radio24.it sezione podcast, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.